Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Quando cominciai nella giornata di sabato a guardare in rete, cercando notizie e commenti riguardo al naufragio della Costa Crociere, di cui la Costa Concordia, di cui state sentendo il reportage nelle operazioni di salvataggio delle vittime che ancora sono dentro, il primo dato che emerse dalla rete era quello delle singolari coincidenze tra la Costa Concordia e il Titanic. Subito pensai che in realtà la rete aveva una sua maniera di reagire molto particolare nei confronti di queste tragedie. Poi naturalmente si è articolato il discorso, è diventato anche uno strumento interessante. Alcune delle persone all'interno della nave segnalavano via Twitter la loro richiesta di essere salvate, di essere soccorse. Però mi piaceva e mi interessò osservare subito questo tipo di fenomeno. All'evento venne subito attribuita una sorta di fatalità che la faccia entrare in un tempo dell'epica. La tragedia del Costa Concordia accade esattamente 100 anni dopo la tragedia del Titanic. Il varo del Costa Concordia, avvenuto 7 anni prima, immobilizzato in rete da un video fatto con il telefonino da una persona qualsiasi, ebbe la tragica evenienza che la bottiglia non si ruppe. E quel video oggi l'hanno guardato 198.000 persone, erano soltanto poche centinaia quando lo vidi io per la prima volta. Tutti dicono no, cosa Dio, cosa è successo. Ecco, questo perché l'approccio è immediatamente questo. E quanto attribuisce in realtà il valore, il successo dell'andare in crociera, il fatto che si entri in un tempo che è parallelo al tempo ordinario. Il tempo della crociera è qualcosa segnato da un profumo di cose antiche, di cose che appartengono a un'altra epoca, in cui la tecnologia ancora ha una sua poesia, in cui l'uomo si sente di poter sfidare quelle che sono le forze della natura grazie al prodigio della tecnica. Le grandi motonavi, grandi transatlantici, lo stesso Titanic, quando venne varato e venne lanciato alla stampa, sembrava che fosse il più moderno e il più inaffondabile dei prodotti della tecnologia marinara. In realtà passerà alla storia come appunto il più fallace dei bastimenti di crociera. Quello che volevo portare alla riflessione del pubblico questa mattina è quanto in realtà la modalità della crociera sia un momento di uscita dal mondo importante e diventato una popolare maniera appunto per potersi permettere, soprattutto nei periodi di tranquillità. La maggior parte dei pensionati sono persone anche avanti nell'età che prendono questa sorta di desiderio di prendersi di uscire per una settimana dal mondo. In queste macchine c'è la ricostruzione di tutto questo mondo fantastico, un po' legato al mito, un po' legato al sottile brivido del fato che sottende ognuno di questi passaggi. Molto più che prendere un aereo, molto più che salire in un treno, anche non voglio entrare in merito sulle statistiche riguardo agli incidenti. Molti ieri mi dicevano, cosa volete che sia, di tante navi che ci sono, una volta accade un incidente, statisticamente accade così, non è che questo mette in precarietà tutte le possibilità di prendere una nave da oggi in poi. Eppure qualcosa sarà cambiato in questi giorni nella percezione dell'idea del viaggio in nave. Guardo qualche dato e vedo che nel 2011 sono stati 11 milioni i passeggeri imbarcati sulla nave da crociera, sbarcati o transitati nei porti italiani. L'anno precedente erano 9,6 milioni, quindi una crescita c'è nel prendere la nave e andare in crociera. Da cosa è determinato il desiderio della crociera? Cosa accade in crociera? O se qualcuno è un veterano delle crociere, è un abitué delle crociere, approfitta di questi momenti particolari in cui probabilmente le persone sono affaccendate da tutt'altre occupazioni per prendere la nave e andarsene. Sembra poco probabile per chi segue i ritmi del tempo consueto, che al terminare del lungo ponte delle vacanze natalizie ricomincia un po' stancamente, un po' controvoglia, ma il momento dell'operosità, il momento del lavoro, il momento dei problemi. C'erano persone che in quell'esatto momento è il momento dell'uscita dal mondo. vanno in vacanza su una nave in cui viene ricostruito in maniera naturalmente a volte anche posticcia rispetto al prototipo, tutto quel clima fatto di grandi saloni con persone che ballano, orchestre che suonano, tutto un cerimoniale di bordo con ufficiali, capitani, divise, scintillii, passaggi, rituali e cerimoniali di bordo che abbiamo visto come poi di fronte a un fatto come quello del Costa Concordia mostrano anche il loro lato debole. 800240024, per chi ci sta ascoltando può dare un contributo questa mattina. È salpata di venerdì 13 e si sa che la storia degli uomini di mare è intrisa di riti scaramantici, capitani, marinai, regole della fortuna, benevolenza della natura. Il giorno in cui la Costa Concordia venne varata, il 2 settembre 2005, non si ruppe la bottiglia di champagne con cui tradizionalmente viene battezzata una nave che si mette in mare. Se una bottiglia rimane integra, sempre secondo le credenze, è indice di cattività. Presagi. Eppure De Laurentiis la scelse per presentare la squadra del Napoli il 3 agosto del 2009, un film, un colossal, una festa favolosa, al terzo piano del teatro chiamato Atene, fra capitelli e colonne disegnati alle pareti, De Laurentiis e Lavezzi si abbracciarono dopo una stagione di gelo a bordo di una creatura orgogliosa, oggi piegata, china, abbattuta. In questo servizio di Sky viene messo in risalto, ma è un po' stato il motivo dominante di tutti i racconti di questo fine settimana, fuori salto il contrasto tra due mondi. Da una parte l'idea di una crociera, di una vacanza, un'uscita dal mondo un po' alla portata di tutti. La crociera non è un'avventura che richiede dei budget stratosferici, se la può permettere anche un medio pensionato. Adesso non vorrei dire eresie, ma però diciamo che c'è una categoria di pensionati che riescono a potersi concedere almeno con una certa cadenza delle crociere. Sono dei viaggi, si vede un po' tutto il mondo, una fetta di mondo, si vede in maniera molto frenetica, si è molte volte sottoposti a un fantastico quanto macerante e lacerante e disastroso ruolino di bordo che ci impone di avere a che fare con animatori e di avere a che fare con delle feste, avere a che fare con dei buffet, avere a che fare con delle occasioni imprescindibili di divertimento a bordo. E poi quando la nave attracca al porto bisogna scendere, c'è il giro organizzato, c'è la velocissima incursione nei luoghi a terra, in cui naturalmente ogni extra viene sonoramente pagato, poi si risale a bordo, poi si riparte, insomma è un tour de force che a molti però piace, e piace perché soprattutto ha un'eco lontana di sensazioni che sembrano appartenere più alla nostra epoca. E quanto costa ricostruire queste sensazioni? Quanto è importante nel senso del viaggio e dell'uscita dal mondo che permette una crociera? 800240024. Noi eravamo partiti alle 19 dal porto di Civitavecchia e intorno alle 21.30 ci trovavamo nel ristorante principale della nave, il ristorante Milano si chiama, e stavamo consumando la cena. E improvvisamente tutto è iniziato a vibrare, abbiamo sentito un frastuono, come la sensazione che la chiglia della nave stesse incontrando resistenza, strusciando con un oggetto esterno molto importante, cosa che poi mi pare sia stato ormai acclarato. A quel punto sono caduti i piatti e bicchieri dai tavoli, la nave si è leggermente inclinata, scene di panico, c'è stato anche un momento di alcuni secondi di blackout, la gente urlando è scappata dalla sala della cena, dalla sala del ristorante. Questo è uno dei tanti racconti che hanno riempito le cronache dei salvataggi, delle ipotesi, delle letture. Dietro la realtà del fatto del Costa Concordia ieri è Luciano Castro, un giornalista che era a bordo della nave. Ma ho visto anche una collega della DN Cronos, c'erano delle persone, ho visto Francesca Rettondini, showgirl, andare ospite del salotto di Giletti, con al seguito una persona che portava il giubbotto salvagente con cui la Rettondini si era salvata la vita. E poi le cronache del Varo, la Erzigova che lancia la bottiglia che non si rompe, la Clerici che fa la grande maestra di cerimonia, lo scintillio, il divertimento, la ricostruzione fittizia di ambienti che appartengono ad altri secoli, ad altri stili di vita, ad altra gente, che però hanno la facilità di essere ricostruiti in questa grande avventura della crociera. 800240024, Nadia, buongiorno. Buongiorno. Io sto sentendo un po' come faccio di solito la vostra trasmissione e devo dire che ho partecipato a qualche crociera, anche se con navi meno prestigiose di quelle della Costa Line, anche perché non scelgo in base al lusso, ma in base ai percorsi, in base alle escursioni che posso fare. Ho sempre viaggiato con degli amici che mi garantivano anche, come dire, oltre che la loro compagnia, anche una certa sobrietà. Quindi lei fa delle crociere sobrie, è contro tendenza totalmente, perché in realtà il segno della crociera... Perché non mi posso permettere delle cose troppo lussuose, e un po' perché poi alla fine lo prendo come un mezzo per poter toccare varie località e fare delle escursioni molto interessanti, più che la vita si di sa bordo. Però tutto questo lusso, ci sono questi grandi saloni coperti di tappeti, moquette, stucchi, lampade, orchestre, poi ci passano gli umarelli in ciabatte con le mogli con le gonne a fiori, non si creda, è soltanto un aspetto esteriore, è come la Disneyland dei sogni di Belle Époque, questo è un pochino il lusso delle grandi crociere. Comunque lei le fa invece finalizzate al percorso. Finalizzato il percorso, anche perché abitando a Genova io vedo spesso, diciamo, dal mare queste grandi navi, e mi hanno sempre fatto un po' di impressione vedere tanti ponti, vederle alte come caseggiati, e preferisco sinceramente delle navi un pochino più piccole. È quello che hanno detto in questi giorni. L'interno è molto più semplice. Se ne accorgono soltanto quando poi vanno a incappare in uno scoglio. In realtà sono navi atipiche. C'è pochissima nave sotto la linea di galleggiamento, sopra c'è un grattacielo. Perché? Perché non usare più ponti possibili. E se perdono un attimo il loro assetto, è facile che si rovescino. Adesso non voglio entrare, non voglio fare come il bar dello sport riguardo, non sono un naufragologo. Però è tra le tante cose che si dicono sempre a posteriori, che in realtà sono navi sì belle, bellissime, piene di possibilità di divertimento e di lussuriosa uscita dal mondo, ma in realtà hanno qualche paradosso nella loro costruzione. Emanuele, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori, chiamo da Varese. Volevo portare l'attenzione a tutti quelli che sono del comparto marittimo, ma anche aereo, perché qui si sta parlando di una questione che riguarda proprio la sicurezza. Lei del settore? Esattamente, sì, pilota di aereo. Volevo appunto ricordare a tutti che la consuetudine di cui si sta parlando qui, purtroppo di questo comandante che almeno dai tracciati radar e satellite GPS si evince che insomma la rotta era veramente al di là di quelle che... No, che era fuori di rotta è scontato. Oggi Corriere della Sera porta anche un'altra lettura, che volesse fare una sorta di improvvisata a un vecchio marinaio accostandosi al porto del Giglio più di quanto appunto questo famoso inchino di cui si parla da tanti giorni, di cui devo dire grazie a un ascoltatore di questa trasmissione forse alle 4 di notte dell'altra notte abbiamo messo noi per primi in rete, quando mi fu segnalata una corrispondenza fra il sindaco del Giglio e il comandante, allora comandante alla Costa Concordia, dove si ringraziava per questo passaggio ravvicinato, una grande esperienza, una consuetudine dobbiamo ripetere. Insomma, abbiamo capito che queste grandi navi da crociere fa parte dello spettacolino di bordo, far avere il brivido ai passeggeri di passare ravvicinati alla costa, e dalla costa ci sono luci, luminarie, ringraziamenti, sirene che suonano da una parte, insomma sono tutti contenti. Ecco, in questa sorta di ricostruzione del fantastico arrivo del Rex a Rimini, come racconta Fellini in Amarcord, probabilmente ci sono anche delle concause di questo incidente. Prego Emanuele, scusa. Sarebbe interessante ricordare a tutti quanti l'incidente che è avvenuto l'8 ottobre 2001 a Linate, dove perirono ahimè 120 persone, le compagnie erano indicate, erano la SAS e un altro velivolo privato, di aviazione privata. Anche in quell'occasione l'incidente fu diciamo causato dalla consuetudine di taxare, in gergo aeronautico, l'aeromobile verso sud, intersecando la pista a sud, quindi consumando molto meno carburante, evitando di fare tutto il taxing a nord. Questo era una consuetudine che tutti sapevano, ma che nessuno aveva mai voluto, come dire, stoppare, fermare. Quindi lei da pilota d'aereo ci dice che ci sono, al di là dei protocolli che rigidamente dovrebbero tutti seguire, perché si tratta della sicurezza e tante vite, delle uscite dalla regola, delle consuetudini accettate proprio per il fatto che tutti lo facciano, fino a che non succede l'incidente. Ma questo accade soltanto alle nostre latitudini, diciamo, o è un'usanza diffusa di uscire dalle regole che determinano poi dei margini di sicurezza? Non è un'usanza, però purtroppo, ahimè, gli enti e chi dovrebbe controllare, gli ispettori, non ci sono, perché a me viene difficile pensare che all'interno di una struttura come la Costa Crociere non ci siano degli ispettori di bordo o qualcuno che si accorga che la consuetudine va al di là di quello che dovrebbe essere la ragionevolezza di un comandante che porta avanti una imbarcazione con 4.000 persone a soli 150 metri dalla costa. Ecco, sulla figura del comandante è un altro degli esempi letterari su cui molto si discute in questi giorni: il comandante del Titanic che rimane fino all'ultimo mentre tutti scendono in scialuppe, le donne, i bambini, affonda con la sua nave. È l'esatta antitesi del comandante del Costa Concordia, che scappa via subito, se ne va, non vuole tornare a collaborare alle operazioni di salvataggio, e sulla cui figura ogni giorno, ogni minuto stanno crescendo le ombre. Come vedete, però, questo comunque riconferma il fatto che fare una crociera, si entra in un universo di riferimenti che è in una zona intermedia fra il reale e l'irreale. E questo probabilmente è uno dei motivi del successo di una forma tutto sommato così frenetica di turismo, quella della crociera. Abbiamo al telefono Bruna De Marchi. Buongiorno. Buongiorno. Bruna De Marchi è una sociologa esperta in disastri ambientali, collabora con l'Università di Bergen in Norvegia e si occupa di emergenze ambientali. Abbiamo spesso ricorso a lei in altre occasioni, ma vediamo se questa mattina con Bruna De Marchi riusciamo a tracciare un quadro di interpretazione dell'idea della crociera legata appunto al fatto che ci sia stato questo incidente. Secondo lei, innanzitutto, rappresenterà un deterrente o conferma ancora di più questa sorta di aura romanzesca attorno alla crociera, quello che è accaduto al largo del Giglio l'altro giorno? Io credo che sicuramente nell'immediato dopo ci sarà un calo delle presenze, eccetera, ma molto, molto in fretta, come spesso succede, questo verrà più o meno rimosso, dimenticato, quindi si tornerà alle consuetudini, si tornerà alle crociere. Che, come sentivo dire da lei stesso, credo sì, c'è stato un notevole aumento di passeggeri in questi ultimi anni, quindi io credo che questo è un effetto che dura per molto poco tempo. Poi, per quel che riguarda la sua descrizione, io la trovo sì pittoresca e anche molto accurata, cioè questo praticamente entrare in un mondo virtuale, in un mondo che normalmente non è il tuo, che richiama il passato e che ha una certa ritualità e che tutto sommato ti può anche spostare in una classe sociale che normalmente non è la tua. Sì, però, ma un po' come farsi le foto davanti ai gladiatori che stanno davanti al Colosseo, questo è il senso. Guardi, posso citare un'esperienza personale. A me è capitato di andare una volta su invito al casinò, che non è un ambiente che frequento normalmente, e devo dire che io mi aspettavo di una cosa alla James Bond. Hai visto che tristezza invece? Sì, una tristezza con questa gente. Tutti con le unghie sporche, tutti pieni di fumo. Sì, ecco, quindi capisco, insomma, tutti umarelli poi sono lì più che altro. Però un aspetto su cui invece vorrei tornare magari dopo, se lei crede, era proprio su questa telefonata di Emanuele, che mi è sembrata interessantissima. Allora, fermiamoci un istante, lasciamo la linea alle informazioni della borsa, poi riprendiamo con Bruna De Marchi, poi per riflettere sullo stimolo che ci dà il nostro ascoltatore. Molte volte esistono delle uscite dalla regola nelle procedure, nell'osservanza dei protocolli, che sono proprio quei momenti che determinano, ahimè, molte volte incidenti come quello che è accaduto. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, questa mattina analizziamo il mito della crociera. il mito della crociera, naturalmente, alla luce delle cronache riguardo all'incidente della Costa Crociere e della Costa Concordia, e naturalmente alla luce di quelle che sono le esperienze degli ascoltatori ci stanno chiamando. Mi scrive Elena su Facebook: c'è terribile il mito della crociera, il finto lusso, il cibo a tonnellate, il divertimento forzato, un teatrino del business in gabbia per criceti. E mi scrive anche Giulia, dice: non mi ha mai affascinato l'esperienza della crociera, come si può desiderare ritrovarsi con migliaia di persone a dividere spazi che, seppur grandi, diventano una trappola mortale in caso di incidente, e soprattutto una vacanza sopra una città viaggiante, una vacanza di code per salire, code per scendere, code per risalire, una vacanza per farsi spennare dagli extra come una mandria umana in una stalla super lusso. Questi sono normalmente due pareri al limite di due ascoltatrici, ma se a molti piace muoversi su una città galleggiante e trova appagamento in questa idea ricostruita del lusso, detto come i centurioni che stanno davanti al Colosseo, che per un istante coprono con uno straccio il turista tedesco, giapponese o bielorusso che passa lì, e lui si trova proiettato nell'antica Roma, ma in realtà si sa che non è così. Valeriano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Sono anch'io d'accordo con le ragazze, perché di crociere ne ho fatte tantissime, ma non siamo più considerati crocieristi. 64 ne ha fatte, ci ha messo per... 64, sì. Lo faccio anche ogni tanto per lavoro, perché mi diletto a portare in giro un po' amici di qua e di là. Però il discorso è questo: non siamo più crocieristi. Siamo diventati delle mucche da mungere. Ecco, ma quando c'è stato il cambiamento? Diciamo, la crociera è diventato un passatempo popolare, non più una sorta di scelta di vacanza diversa. Bravissimo, è bello comunque fare la crociera, perché ti porta in porti, puoi tranquillamente uscire, andare a vedere Istanbul, a vedere la Grecia, questo e quest'altro. Sì, ma non in due ore a passo, no, di marcia. Esatto, qua sono d'accordo con te, però il problema solamente è questo. Ti do due numeri, così almeno gli amici che sono a casa capiscono: un caffè 1,50 al banco o al tavolo, quando vuoi, più attenzione, il 15% di sovratassa per il servizio. Ma io quando pago il biglietto, scusami, non ho incluso tutto, punto interrogativo. Sì, vabbè, questo lo dicono tutti, però si sa, fa parte del gioco, lo sappiamo tutti. Ho capito io. Lo sappiamo che la crociera molte volte sembra buon mercato, ma in realtà uno torna a casa, si fa i conti, ha speso di extra, diciamo, il 50% di quello che aveva speso di crociera. Però che vuole? Se vuole fare la botta di vita, se no sta a casa, va a giocare a bocce. È il mercato, sono questo molto, offre. Molto d'accordo con te. Piangere dopo non c'ha senso. Sì, un'altra cosa, Gianluca, che non sono d'accordo con tutti quanti quelli che stanno parlando adesso sui telegiornali di qua di là: paragonare quello che è successo qui alla costa, paragonarlo al Titanic. Cioè, ma certo, Titanic, ma è chiaro. È una cosa incredibile. Ma è una follia, l'ho detto. I giornalisti che vogliono tutti quanti essere bravi, bravissimi. Tu invece stai facendo un'analisi seria. Mi compiaccio, veramente. Lo sai, c'è stato addirittura un finto video che è circolato nei telegiornali nazionali, l'ha passato il TG2, che mostrava l'interno della nave della Costa Concordia. In realtà non c'entrava niente, era un totale tarocco, uno dei tanti fake che mettono in rete, però funzionava perché era un facile appiglio emotivo per riportare le immagini del Titanic affondato nel mare con tutte le suppellettili o quelle che abbiamo visto nel film, perché noi abbiamo perso ormai la cognizione di ciò che abbiamo visto come documento di realtà e ciò che abbiamo visto come ricostruzione di film. Avevamo al telefono Bruna De Marchi, una sociologa con la quale stiamo appunto analizzando, lei che è esperta in emergenze ambientali, alcuni aspetti legati al mito della crociera. L'avevamo interrotta, Bruna De Marchi, le ridò la parola. Sì, sul mito della crociera credo che, io sto sentendo quello che dicono gli ascoltatori, mi trovano molto d'accordo, peraltro non mi pare neanche giusto in qualche modo colpevolizzare o disprezzare chi ha dei gusti diversi. Ma assolutamente. Perché, ecco, cioè, sì, è un tipo di vacanza che a me non piace, ma e a molti non piace, condivido l'analisi. Ma per molti è un grande piacere. Per molte persone è un sogno, è proprio quello che cercano, è davvero, no, l'ostacolo della realtà quotidiana, oppure vedere delle cose che altrimenti sarebbe più difficile vedere, hanno bisogno di stare insieme con altre persone, per cui voglio dire, siamo diversi e ci sono gusti diversi. Quello che volevo riprendere, ma non so se è la linea su cui lei vuole andare, era il discorso della sicurezza. No, no, è interessante, ecco. Gli aspetti concreti più legati alla realtà, noi adesso stiamo divagando, ma la collega Calandra che sta nel posto sta raccontando di operazioni di soccorso, di vittime o di dispersi, quindi c'è una realtà della quale non possiamo fare a meno di tenere conto. No, quello che volevo dire, riagganciandomi a quello che ha detto Emanuele chiamando da Varese, era proprio questo discorso che noi ci affidiamo, come è giusto che facciamo, a dei sistemi esperti ogni volta che prendiamo non solo una nave ma anche un aereo ma anche un treno o qualunque mezzo di trasporto, e così diamo per acquisito che ci sia una sicurezza su questo, anche se poi abbiamo le nostre paure, perché riteniamo che sia appunto un sistema esperto che si fa carico di tutti gli elementi della sicurezza. Quindi il brivido, come dire, è quasi un po' finto, no? Ce lo vogliamo concedere, ma perché abbiamo appunto visto il film Titanic, non perché pensiamo che davvero ci possa essere un'esperienza di questo genere. In realtà il problema è che questi sistemi esperti spesso non sono così affidabili come dovrebbero, e quello che diceva l'ascoltatore è proprio che ci sono a volte delle procedure che non sono regolari, che però così vengono fatte, e più vengono fatte più diventano rituali che violano in qualche modo un po' le norme, e più vengono così accettate, non ci si pensa più, si è sempre fatto e si continua a fare fino al momento in cui succede un incidente. E questo va di bene che vale non soltanto per il sistema dei trasporti, ma vale in tecnologie pericolosissime come il nucleare. Adesso non voglio entrare in questo filone, ma veramente poi dopo un incidente sempre viene fuori che tutta una serie di procedure sono state in qualche modo o violate o non seguite alla lettera e così via. Quindi molte volte la tecnologia unita alle procedure per gestirla dà dei margini di sicurezza. La tecnologia, se non si ottempera a queste procedure, cadono le percentuali di sicurezza sui quali facevamo affidamento. Esattamente, perché quello che succede è che poi diventa molto familiare, come quando noi guidiamo la macchina, è la stessa cosa, una cosa diventa poi un'abitudine, una cosa talmente familiare che non ci rendiamo conto che in realtà abbiamo in mano degli strumenti molto potenti anche per farci e per fare male. Sentiamo un attimo solo, scusi dottoressa, Luca che telefona e mi sembra proprio esperto di materia. Luca, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Sì, diciamo che io professionalmente opero nel turismo, però avendo ho fatto anche degli studi relativi proprio alla navigazione, al nautico, e infatti dico che le navi di nuova generazione in realtà sono ben più sicure strutturalmente per la tecnologia che hanno a bordo rispetto alle navi di 30 o 40 anni fa. Il fatto che ci siano queste dimensioni enormi, questi palazzi che galleggiano, non è a scapito della sicurezza. Però, come ho sentito anche nei precedenti interventi, tutta la tecnologia, anche più moderna, poi è in mano a un essere umano. Quindi se questo commette degli errori... Se questo passa a 150 metri da una costa dove si sa che ci sono scogli, naturalmente la sicurezza va a farsi benedire. Antonio, buongiorno. Abbassi, spenga la radio. Ecco. Buongiorno. Ecco. Sì. Senta, io sono un ex marittimo della società Costa. Da quanti anni non naviga più? Una quarantina d'anni. Quindi dell'altra generazione, diciamo, di navi e di crociere? Sì, comunque ho navigato sulla prima ammiraglia, la prima turbonave. Lei ha detto oggi le motonavi, e oggi sono tutte turbonavi. Sì. Non sono uomo di mare, Sara, mi si consenta. No, va bene. Motonave mi dà l'idea di qualcosa che appartenga a quel tempo mitico di cui ci stiamo riferendo. Sì, comunque volevo dire questo. Era la Federico Costa, era una nave già malformata in partenza, perché la dovettero zavorrare di un piano, mandarla giù, sott'acqua un piano, e poi farla navigare, perché altrimenti durante le prove... E a momenti si piegava, tornava sempre a galla e si ribaltava. L'ingegnere si abbassò tanto. Ma che anni erano quelli? Scusi, che anni erano? Nel 65. Come si chiamava la nave, ha detto? Federico. Sì. Federico Costa. Era l'ammiraglia allora, era la prima turbonave. Era nata nel 59. Io la presi nel 65. E poi feci il primo incidente, ecco perché io volevo sottolineare che c'è in gran parte l'errore ordinata umano. Dalla Costa alla Crociere nel 58 ai cantieri Anzaldo a Sestri Ponente. Sì, ecco. Feci un incidente banalissimo che comprova anche la banalità delle persone, non c'è meritocrazia tra i comandanti. Ad Alessandria d'Egitto a mezzogiorno si vedeva un arco per terra, andammo a sbattere contro un mercantile ancorato, c'era il pilota a bordo, tutto e via, e andammo a finire contro il mercantile. E poi si arenò sulla sabbia a Trinidad, io cambiai nave, la trovai lì andando a Trinidad con l'altra nave che si era arenata. Si era arenata perché lì c'è una canaletta segnalata da delle boe. E dice che il comandante se n'era andato via dalla plancia prima di uscire dalla canaletta e c'era rimasto il primo ufficiale. Il primo ufficiale già non si poteva andare il comandante perché era ancora in pericolo uscendo dalla canaletta. C'è un ordine che ha l'attracco e quando si parte il comandante. Ecco, adesso non vorrei entrare troppo nei suoi racconti che sono suggestivi. Sì. Ecco, riguardo lei sarà fatta una sua idea da vecchio marinaio riguardo all'incidente di ieri l'altro. Cosa ne pensa? La banalità è poca responsabilità del comandante, perché un comandante responsabile si mette al sicuro, a parte il salutare l'isola o chi per esso. E si mette al sicuro prima cosa dalla navigazione, poi dopo pensa a salutare. Ma usava anche ai suoi tempi fare questo famoso inchino davanti alle isole, davanti ai piccoli porti? No, allora no. Oddio, quando ci trovavamo in mezzo all'Atlantico, anche lì c'era uno scoglio che si segnalava ai passeggeri che c'era lo scoglio di San Pietro e Paolo in mezzo all'Atlantico, allora suonava perché i passeggeri andavano su e vedevano questo scoglio qua. In mezzo all'Atlantico, nella traversata per il... Bene, Antonio, la salutiamo velocemente. Francesco invece mi sembra che sia un esperto tecnologico e anche la sua da dire. Sì, io insomma sono uscito dal nautico e quindi ho fatto anche io un po' di lavoro in cantiere, quindi ho seguito un po' la cantieristica, diciamo, come costruttore navale. Secondo me, in fase di progettazione di questi colossi, sarebbero bastati poche migliaia di euro a confronto della spesa di milioni di euro che costano queste navi, di dotarle a prua e sotto chiglia di ecoscandagli, un po' come i nostri sensori della macchina quando posteggiamo, diciamo, che ci guidano. Sì, io ho l'ecoscandaglio della retromarcia nella mia macchina, però mi fa prendere delle trambate bestiali. L'altro giorno ho fatto fuori lo specchietto a un'altra macchina, nel senso che sì, suona, ma non è che copre tutta l'area. Guardi, comunque non credo che basti aver fatto un po' di nautico per dare consigli di come deve essere costruita una nave che porta 4.000 passeggeri. L'ho detto, ringrazio del suo contributo, non vorrei trasformare questa trasmissione nel bar dello sport dei costruttori navali. Melog, la realtà condivisa. 800240024, stiamo dando libera espressione al pubblico della radio, che poi rappresenta il campione medio degli italiani che osservano, guardano, seguono in televisione, leggono i giornali, cercano di farsi un'opinione su ciò che è accaduto. E in un paese in cui un delitto e un omicidio da anni trascina folle mediatiche nel seguire il perché, il per come, per quando, non poteva non avere un'attenzione così capillare rispetto a un episodio che ha riempito le pagine di tutta la stampa estera, che questa sorta di Titanic italiano, anche dal punto di vista iconografico, si prestasse bene a riempire le pagine dei giornali, è un fatto assodato. Abbiamo Rocco, buongiorno. Buongiorno, mi scusi intanto se diciamo disturbo un po' con i miei problemi. No, nessuno, l'abbiamo chiamata apposta perché lei rappresenta la figura emblematica della persona che aveva il biglietto in tasca per la prossima crociera e non sa cosa fare. Eh sì, anche perché mia moglie ora ha paura. Ma la stessa nave dovete prendere, la Costa Concordia. Guardi, per un pelo non ci trovo. Mi scusi se sorrido, ma un... No, non ridiamo, perché non c'è poco da ridere, però ci è mancato ma poco. Un sorriso di fortuna che mi è capitato, nel senso che dovevo prendere quella nave. A lei doveva essere sopra la costa con quello. Esatto, e poi per motivi diversi abbiamo optato per quella un po' più lunga, che dovremmo appunto... Insomma, come prendere. Si sceglie la nave da crociera? Mi spieghi. In famiglia si fa una sorta di riunione, marito e moglie decidono andiamo in crociera. Eh sì, noi abbiamo... In base al percorso o in base alla nave? Noi abbiamo pensato alla crociera perché volevamo divertirci un po', ecco, divertirci anche nei tragitto. Da solo andavate, da soli voi due? Io sì, io e mia moglie, ci siamo sposati da poco. Ah beh, siete come gli sposi novelli. Guardi, mi ha scritto una coppia di sposi novelli, hanno detto noi siamo andati in luna di miele nella nave da crociera. Il vero problema è che per tutta la crociera non siamo riusciti a consumare, perché stavamo in una cabina così promiscua con i nostri vicini di cabina, che sentiva anche respirare, e avevamo un rulino di quotidiano di cose da fare così stretto, che alla fine abbiamo consumato quando siamo tornati a casa. No, noi invece abbiamo consumato già perché... Avete già fatto, quindi potete mese. Andare tranquilli. Sì, esatto. Andate scarichi e potete anche darvi la pazza gioia. Esatto, era quello lo scopo. Quindi ora invece... c'è una grandissima paura perché dovrei partire mercoledì con l'altra crociera, con la Serena. E qual è il percorso? La Spagna, quindi fino a quel punto diciamo che il tragitto è uguale. Però mi scusi Rocco, statisticamente... Penso che prima che riaccada un incidente del genere con una nave costa passeranno millenni. Quindi... Praticamente siamo anzi più tranquilli in un certo aspetti, però la paura è subentrata ormai, cioè la notte mia moglie non riuscirebbe più a dormire per paura che eventualmente accadesse un qualche cosa non uguale, cioè, ma un qualcosa di diverso, e per cui... Sì, uno dovrebbe nemmeno andare a letto, la maggior parte dell'umanità muore a letto, quindi... Esatto, esatto, e quindi con questa paura non so se riusciremmo a dormire con la tranquillità. Ma allora con quale decisione siete arrivati? Nulla, che ora vedremo, e io intanto Vedremo, mancano pochi giorni, non è potete pensare... Sì, io chiamerò l'agenzia per sapere se posso disdirla. Ah, quindi ha deciso di disdire? Voglio sapere intanto se la devo disdire, se posso, è perché mia moglie... Pagherà una penale, forse nemmeno no, data la circostanza, non so cosa dirle. Noi, cioè, non lo so se c'è una penale da pagare, poi... Ma in ogni caso, guardi, se potessi dire come la penale... Io, a me non piace l'idea della crociera, ma se avessi già il biglietto in tasca... La immagino come una delle più fantastiche crociere possibili, con pochissime persone, perché tutti disdiranno, vi faranno ponti d'oro, perché sarete considerati come una sorta di... No, ma io su questo sì, su questo ci credo. Mai occasione migliore, sembrerò cinico. La paura, ecco, è questa la realtà, che comunque c'è una piccola paura, mi sospetta. E poi volevo dire un'altra cosa, se mi è consentito. Sì, sì, è consentito. Cioè, qui praticamente si usava il sistema. Si è autoinquinato da solo, guardi, sta già affondando dal salotto di casa sua, quindi sta facendo le prove per la crociera. Bruna De Marchi, sociologa esperta in emergenze ambientali. Quest'ultima telefonata ha dato un po' il senso a quello che stavamo cercando di farci dire dal pubblico dall'inizio della trasmissione. Esiste in realtà un senso immediato di timore, però se lei sentiva il tono dell'ascoltatore, quasi giocava con la paura di sua moglie. Sì, peraltro questa coppia la vedo dura perché non consumano e neanche dormono, e cosa fanno in crociera? Si preparano alla routine matrimoniale. No, beh, quello che voglio dire è che sicuramente questa non è una cosa razionale, cioè statisticamente eccetera, lei ha perfettamente ragione, però se uno deve vivere un'esperienza che ha pensato come un'esperienza di piacere, di rilassamento, di divertimento, e sa che la arriverà con la paura, beh, che senso ha, insomma, no? E questo funziona così. Magari fra un mese invece questa stessa coppia dirà: ma perché non ci siamo andati? Perché qui c'è un impatto immediato, ogni giorno succede di tutto, ma quello che si instaura nella nostra attenzione è quello che è appena successo, non pensiamo a tutto quello che è sempre successo, che può succedere, che succederà, e soprattutto con una copertura mediatica così forte, come è normale che sia, è ovvio che i pensieri sono concentrati su quello. Però io faccio altre considerazioni, Buone Marchi. Primo, una coppia media che sceglie di andare in crociera nel target che i numeri appunto segnano come crocierista tipo, deve comunque programmare la crociera, quindi mettersi in ferie nei luoghi di lavoro, organizzarsi la valigina con i vestiti, comprarsi il vestito da sera per fare bella figura e le scarpette lucide per il gran ballo sul ponte con il capitano, deve fare tutta una serie di operazioni che è molto frustrante fare retromarcia, a meno che non ci sia una impellente ragione non soltanto emotiva. Lei l'immagini di questa signora, starà lì, già avrà comprato le toilette, sarà fatta i capelli, sarà comprata la biancheria per le notti di fuoco, sarà tutta pronta per la crociera, lui avrà comprato gli obiettivi per la macchina fotografica, la valuta per i paesi in cui scenderà, avrà detto a 200 colleghi, amici, amiche che partiva. Adesso cosa fanno? Si nascondono in cantina come una nota storia della coppia da far vedere che è andata in giro? Secondo me partiranno lo stesso. Non a caso telefonano all'agenzia, perché si aprono la strada a dire vabbè, possiamo rimandare, questo vuol dire sostanzialmente. Ah, cercano di rimandare, secondo me vuol dire rimandare, cioè aspettiamo che passi la paura. Allora lei dice che non so che cosa dirà l'agenzia, io dubito che dirà sì va bene, potete cancellare, però io credo che quello che stanno cercando, almeno mi pare di capire, è di dire vabbè, lasciateci il tempo e ci passi la paura e poi torniamo con le scarpette già comprate, gli obiettivi e così via, perché in questo momento probabilmente quello che prevale soprattutto nella moglie, però non lo so se poi è solo la moglie, è questo sentimento di andare a fare una cosa che doveva essere un grande piacere invece con una grande strizza, insomma questo mi pare il punto. Velocemente Agnello, una battuta proprio, stiamo chiudendo, cosa deve dire? E devo dire che io sono un ex marittimo, volevo intervenire dicendo che non ci vuole mica tanto a scongiurare certi incidenti, basta andare in distanze di sicurezza che a distanza di mezzo miglia. Anche questo ascoltore sente male, ma ci dice, ribadisce lo che abbiamo già detto, se fossero osservate le regole e i protocolli, i margini di incidente sarebbero minori. Ci sentiamo domani.